cerca di trovare le parole di una canzone per una vita da risuonare con una nuova interpretazione. C'è chi cerca di capire quale vuoto dovrà riempire per non rincorrere qualcuno che non riuscirà a trovare. C'è chi si finge sicuro, chi sbatte contro un muro, chi mette in gioco tutto di sé. C'è chi non si fa domande, chi è diventato grande, chi chiude gli occhi e non cresce più. Ognuno cerca una risposta fuori e dentro sé, però io mi chiedo in fondo poi la domanda qual è. C'è chi fugge via lontano per riuscire a ritrovare una normalità diversa, un posto nuovo per il cuore. C'è chi vorrebbe cambiare qualcosa che non sa capire, e dentro gli occhi della gente cerca una luce da seguire. C'è chi poi si sente solo, c'è chi ha spiccato il volo e c'è chi resta fermo dov'è. C'è chi cerca un'altra vita, chi pensa che è finita, chi ricomincia ma non sa perché. Ognuno cerca una risposta fuori e dentro sé, però io mi chiedo in fondo poi la domanda qual è. La domanda qual è. Viaggia e